La vita moderna ti stressa, è una mappina e tu te fai a cucaina? No! Riappropriamoci degli spazi, riappropriamoci di ciò che è nostro, riappropriamoci della nostra vita, non lasciamola trascorrere così ripetutamente! Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente. Ma sento una mappina, ripetutamente. Mi vorrebbe un'aspirina, ripetutamente. Una cosa più potente, ripetutamente. E vado di là in cucina, ripetutamente. Nel frigo non c'è niente, ripetutamente. Dolore insistente, ripetutamente. Nel corpo e nella mente, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Pullman è soffocante, ripetutamente. Emilio Fede è delirante, ripetutamente. Acera bella e rovente, ripetutamente. Gesù Cristo onnipotente, ripetutamente. Sto fumo non fa niente, ripetutamente. Ma te rigo proprio niente, ripetutamente. Che giornata produttiva, che giornata divertente, che giornata ripetuta, ripetutamente. Qualcuno tutti i giorni devi andare a lavorare, a qualcuno se ti ammali tanti soldi devi dare, a qualcuno se tu studi le tasse poi devi pagare, a qualcuno se tu viaggi biglietti poi devi pagare, a qualcuno per svariare ancora soldi devi mollare, qualcuno se la gode mentre aspetti di morire, qualcuno che fa di tutto per impedirti di pensare. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Qualcuno ha organizzato questa storia divertente, qualcuno ha tanti volti ma una sola è la sua mente, ti penetra nel sangue, diventi un suo inserviente. Qualcuno sul lavoro, qualcuno a casa mia, qualcuno l'eroina, qualcuno polizia, qualcuno sangamara, rinta friggitoria, qualcuno è una maniera, gira e botta tancatena, qualcuno senza nome, tutto chiamano sistema. O sistema tancatena, o sistema tancatena, sistema, sistema, sistema che tancatena, sistema sul lavoro, sistema a casa mia, sistema l'eroina, sistema polizia, sistema sangamara, rinta friggitoria. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr. Ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Coccheruna tarisce, ve cosa ripetuta me. Tarisce 99 posso che le nasa me. Coccheruna tarisce, ve cosa ripetuta me. Hagamore l'eroino, guernia polizia. Napolo fanna, na consultaria. Cascia denet quanta mana, ca forza l'arroganza. Perciò arabo l'uocchi invece sta che mana in coppa panza. Officina 99, lui hanno occupata. La mezza chi stice sogna, tripa la passata. Vai a fanu spazio sociale, tu fai riesci urna, push uriana. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Democrazia cristiana, ripetutamente. Partito socialista, ripetutamente. Leghe fascisti, ripetutamente. Democratici di sinistra, ripetutamente. Rifondazione comunista, ripetutamente. Ala presidenzialista, ripetutamente. E prefette ministra, ripetutamente. Cessa, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. 99 posse in a ripetuta style, tenim pure a guest star, rinto vash, suoni mudu. Già sai, già sai, già, che tu di caffa. Ripetutamente la storia si ripete, in dalla piazza solo bomba a rete, mezza la cresiana che se non scevano alla pete, sti bastardi mettono la bomba a rete. Facite attenzione che so bomba a rete, so bomba d'estate, so bomba tu decrete, che porta nella firma due servizi segreti delle massune con tutte le prete. Coi soldi della mafia si comperano i voti, fanno gli sciacalli dopo i terremoti, hanno sfruttato, corrotto e insabbiato tramite servizio segreto di stato, usato ogni mezzo a disposizione, la bomba in piazza, sul treno alla stazione, allora chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba, attento a chi può fermare la ruota, e chi lo può? Badam bamba, chi può fermare la ruota? Chi lo può? Badam bamba. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Radio Gladio, ripetutamente. Lele Prox, ripetutamente. Suoni Mudu, ripetutamente. Bisca, ripetutamente. Daniele Sepe, ripetutamente. Maurizio Capone, ripetutamente. Riccardo Deno, ripetutamente. Mariano Caiano, ripetutamente. Speaker Zoo, ripetutamente. Officina 99, ripetutamente. Lavori in corso, ripetutamente. 99 posse, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr.